puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui alle 18.36 per raccontarvi un'altra giornata di folle politica in Italia. I numeri per chiamarci: 800 24 00 24, il numero verde, sms 349 238 6666, la zanzara è radio24.it. Andiamo a sentire cosa ci offre il TG2. Il presidente Napolitano firma la legge sul legittimo impedimento. Il premier e i ministri possono ottenere uno stop di 18 mesi per i processi che li riguardano. In Thailandia, assediato il Parlamento da 5.000 manifestanti, i deputati fuggono in elicottero. Decretato lo stato di emergenza, caos anche in Kirghizistan, oltre 100 morti. La perizia del collegio dei legali nominato dalla procura accusa i medici dell'ospedale Pertini. Cucchi sarebbe morto per mancata assistenza. Stesse conclusioni della commissione parlamentare. Un cantiere navale di Brindisi propone a Venezia l'acquisto di gondole in vetro resina, più leggere ed economiche. Ma i gondolieri si ribellano, così addio tradizione. Si inserisce nel dibattito politico quotidiano anche Peppino Di Capri a proposito della battuta lanciata l'altro giorno sul Corriere della Sera da Bobo Maroni, il ministro degli interni: potremmo candidare la Lega, un uomo della Lega, come sindaco di Napoli. Peppino Di Capri dice: Lega a Napoli, perché no? Napoli va raddrizzata, ha bisogno di uno scossone rispetto allo sfacelo del passato. Studio aperto. Orrore in ospedale, una donna morta lasciata in una barella tra gli altri malati in corridoio. Nemmeno un lenzuolo a coprirle il volto. Blitz dei NAS al pronto soccorso di Chivasso in Piemonte. I controlli dopo le lamentele dei pazienti. Napolitano ha firmato il disegno di legge sul legittimo impedimento del premier e dei ministri a comparire in processo. Verso le riforme, PDL e Lega trovano l'accordo su giustizia e fisco, federalismo e presidenzialismo. Russia, un festino a base di vodka e droga da film horror. Due ragazzi fanno a pezzi un'amica sedicenne. Allora, farò anche una citazione sconveniente, però è quello che penso. La citazione è di Joseph Goebbels, addirittura il ministro della cultura nazista, che diceva: quando sento parlare, in realtà era ministro della propaganda, quando sento parlare di cultura metto mano alla pistola. Ecco, io ho la stessa sensazione quando sento la parola riforme. Adesso inizia un periodo di tregua elettorale e potremo finalmente avviare la stagione delle grandi riforme, la riforma dello Stato. Un altro del PDL, Quagliariello. E le riforme si fanno per i cittadini, dunque riforme economiche appena possibile e poi riforme dello Stato per chiudere questa fase di transizione. La Russa. Non si è parlato di una regia alla Lega perché è stato pacifico per tutti che la regia del Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Poi per ciascuna materia naturalmente ci saranno i ministri competenti per le riforme. Bocchino. Sulle riforme emerge che c'è sintonia all'interno della maggioranza, non c'è bisogno di regie dei sindaci. Questo è il dichiarificio quotidiano a cui si aggiunge anche il neogovernatore del Piemonte, Cota: la Lega sarà il motore delle riforme, non la voglio più sentire questa parola. La Lega è il motore delle riforme, dunque è naturale che giochi un ruolo centrale in questi tre anni di legislatura, anche perché il federalismo si realizza da Roma ma anche dalle regioni. E a concludere Di Pietro, che dice: gli altri parlano di riforme, intanto la gente muore di fame. A forza di parlare di riforme, la gente sta morendo di fame a forza di mangiare pane e riforme. Riforme di che? Questi si riuniscono ad Arcore ogni fine settimana semplicemente per decidere chi deve andare a fare il Presidente della Repubblica, chi il Presidente del Consiglio, chi il Governatore di qua e chi il Governatore di là. Ma gli italiani senza lavoro e quelli che non arrivano a fine mese, quello che non hanno un minimo di assistenza. Come fanno? A quali riforme si appellano? Bisogna saper perdere. E intanto parla Bersani, ieri sera a 8:30. Intanto sulla questione ormai famosa di quello che ha detto dopo il risultato delle elezioni regionali. Sostiene Bersani: ma io in realtà non ho detto che non abbiamo perso, non ho detto che abbiamo vinto. Perché io non ho affatto cantato vittoria, non è questo. Io ho detto una cosa: primo, per noi c'è stata una delusione forte, perché eravamo lì a due passi per prendere 9 regioni sostanzialmente. Nessuno ci avrebbe pensato che fosse possibile per noi prendere 9 regioni soltanto un mese prima. Ci siamo arrivati vicino, delusione fortissima. Secondo, preoccupazione, perché questo voto segnala un distacco fra cittadini e politica e segnala anche una radicalizzazione che coinvolge anche noi. Chi sarà il candidato del Partito Democratico nel 2013? Io, per quello che mi riguarda, non escludo la mia candidatura, dice Bersani. Io non escludo niente e credo che nessuno debba escludere niente. Io sono talmente sicuro del fatto che una volta che noi abbiamo costruito nei contenuti e anche nello schieramento una proposta di alternativa, tutti quelli che sono lì scelgono quello o quella che li porta a vincere. Sono sicurissimo di questo. Poi parla di ombelico e lealtà. A me, ripeto, come la questione delle riforme per il centrodestra, mi sembra tutto incomprensibile. Io sono solo preoccupato che non ci, come l'ho detto, che non ci guardiamo l'ombelico, e che perché il paese ha bisogno di noi, noi dobbiamo migliorare, dobbiamo rafforzarci e essere utili a questo paese qui, l'interesse che vogliamo rappresentare, con tutta la discussione che serve, ma con lealtà a questa missione. Se c'è lealtà a questo, le discussioni non disturbano mai. Crozza ieri sera a Ballarò su Bersani. Tutto il partito è schierato per portare a casa questa delicata e fondamentale vittoria, vincere a Mantova. Ecco. Cos'è rimasto al PD? Mantova. Io mi immagino Bersani che dice: oh ragazzi, ma non possiamo mica guardarci l'ombelico? Ma siamo pazzi? Mantova? Ma l'avete mai assaggiati i tortelloni che fanno a Mantova con la zucca? Siamo qui alle 18:47, 800 24 00 24. Il primo ascoltatore di questa sera è da Sondrio. Aldo, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Allora, senta, molto semplicemente volevo dire due cose, una sulle riforme e l'altra su Tremonti. Dunque, per quello che riguarda le riforme, dico che abbiamo scoperto adesso, dopo che Berlusconi è stato eletto nel 2008, furor di popolo, che bisognava attendere le elezioni regionali 2010 per finalmente fare le riforme. Io mi chiedo, visto che questo è il tema, no, che suona la gran cassa governativa. Sì, ma durerà pochi giorni, Aldo. Durerà infatti, pochi. Dico, chi ha impedito a questo signore di mettere mano a queste fantomatiche e mirabolanti riforme da quando è stato eletto fino ad oggi? Cioè, mi sembra una domanda. Sì, ma poi quali riforme? Di quali riforme stiamo parlando? Di cosa? Guarda, io le faccio un esempio. Negli Stati Uniti hanno... Quando non c'è niente da dire, mi scusi se la interrompo ancora Aldo, poi sì, la lascio continuare. Di solito quando uno non ha niente da dire parla di riforme. Dunque ci sono vertici, magari viene fatta una commissione, si propongono le bozze, sì, le cose. Di solito quando così si vuole perdere tempo, eccetera, si parla delle grandi riforme istituzionali. Sì, è fumo negli occhi degli elettori che vogliono... Ma non è tanto fumo negli occhi, è così, è il dichiarificio quotidiano. Sì, poi sa, io dico, faccio un esempio, negli Stati Uniti sono stati stanziati 7 miliardi di dollari per portare la banda larga nel maggior numero possibile di località. Qui in Italia avevamo 800 miseri milioni di euro che il sottosegretario Romani poi ci dice sono scesi a 300 milioni di euro e adesso non si sa nemmeno questi 300 milioni di euro che fine hanno fatto. E siamo qui a lambiccarci di presidenzialismo, di tutte queste alchimie istituzionali di cui secondo me francamente l'Italia non ha nessun bisogno. Adesso va di moda il semipresidenzialismo, attenzione, non il più il presidenzialismo, il semipresidenzialismo. Io credo che la maggior parte delle persone che parlano di semipresidenzialismo non sanno manco come funziona e cosa significa. In Francia sì, ogni tanto ci sono stati dei casini inenarrabili con il presidente di un colore e il capo del governo di un altro colore, con alcuni poteri all'uno, alcuni poteri all'altro. Puoi immaginare in Italia cosa potrebbe accadere. La ringrazio, Aldo. Roberto, permette che dica un'ultima cosa su Tremonti. Sì, dica. Niente, quello che lei ha fatto sentire ieri sera. Perché lei è da Sondrio, lei è conterraneo, no? Sì, sono conterraneo, sì, tra l'altro. Ma so che il fratello di Tremonti è farmacista, o no? Esatto, e pensi un po' che la cognata, se non ricordo male, era mia professoressa alle superiori. Vabbè, i casi della vita. Come è strano il mondo. Vabbè, comunque volevo dire, quello che lei ha fatto sentire ieri sera sul discorso noi siamo gente semplice, siamo vicini. Sì, non leggiamo i libri, eccetera. Ecco, mi sembra che sia un po' un sovvertimento di quello che ci hanno sempre insegnato. Io ho imparato che la cultura è un valore. Che non basta bisogna... non ostentarla però. Sì, è vero. Come non bisognerebbe ostentare il contrario, magari. No, esatto, non bisogna nemmeno fare l'elogio di questa semplicità che poi... Non mi faccio Michele Serra su questo. No, d'accordo. Con la campagna, con la città, con quelli che leggono i libri e quelli che vanno al cinema e quelli che invece non fanno nulla. No, per carità, però mi sembra che stia un po' passando il messaggio contrario. Si va un po' da forse sì. L'elogio dell'ignoranza, dice lei. Si pendono tra i due estremi, probabilmente. Va bene, grazie Aldo. Va bene, grazie a lei, buonasera. Angelo da Modena, buonasera. Eccomi. Sempre prego. Sulla faccenda del fatto, mi sì. Dispiace che sarà una cosa trita. No, dica. Però io penso che ci sia una certa differenza tra un trasferimento di denaro a qualunque titolo tra un'amministrazione pubblica e un ente privato e invece usufruire di una tariffa agevolata. Certo che c'è differenza. Io ho la partita IVA, però non sono un tassista, quindi la macchina io la scarico al 40%, come tutti quelli che hanno la partita. C'è sicuramente differenza, Angelo. Un tassista scarica le spese dell'automobile al 100%, ovviamente. Sì, però, e la stessa cosa, cioè se lei, visto che è giornalista, sì. Volesse fare la gazzettina del suo condominio e va a chiedere alle Poste, le fanno anche lei la cosa agevolata. Certamente. Perché è l'unico requisito è registrare la testata al tribunale e avere un giornalista come responsabile. Sì, Angelo, guardi, assolutamente sì. Poi, c'è una differenza, però mi scusi se la interrompo ancora. Il problema è che io sono abbonato al fatto e quindi lo leggo abbastanza. Ma lei è abbonato PDF oppure cioè PDF nel senso PDF. Internet? Sì, oppure... sì, internet, perché le Poste dalle nostre parti sono una tragedia. A proposito, vabbè, questo sarebbe un argomento di un'altra. Vabbè, allora. Cioè, loro effettivamente non vanno, non è che la mandano a dire, cioè quando devono dire una cosa la dico, però nel limite del possibile rimangono nella correttezza letterale di quello che dico. Sì, però Angelo, quindi, adesso, questo non è un finanziamento, è una tariffa che è disponibile per qualunque pubblicazione registrata al tribunale e quindi o decidiamo che, come succederà presto, penso che venga abolita, oppure comunque ne può usufruire, cioè, ma non sono soldi che vanno alla testata questo. Beh, sì, indirettamente sì, altrimenti uno dovrebbe pagare per intero, dovrebbe pagare per intero, che evita di spendere, che è diverso. Insomma, adesso Angelo, però attenzione, no, è una cosa diversa da ma dire. Certo che è diverso, è molto diverso da un finanziamento diretto, infatti vengono chiamati finanziamenti indiretti. Angelo, però detto questo non lo so. Comunque Angelo, lei ha fatto bene a precisare queste cose, noi siamo aperti a qualsiasi discussione, soprattutto a qualsiasi intervento. Massimo da Caserta, buonasera. Buonasera. Dica. Io vorrei complimentarmi innanzitutto per il motivetto di introduzione della trasmissione, che appare più emblematico di qualsiasi altro tipo di discorso. Sulle riforme. Sì. Io ho citato Goebbels, quando sento parlare di cultura, diceva Goebbels, metto mano alla pistola. Io quando sento parlare di riforme, metto mano alla pistola. Ora è un paragone forse esagerato. Io volevo dire solamente una cosa, cioè appare quanto mai strano, comprensibile, come stato di me. Io peraltro spero che non mi rimangano le riforme, sono 3 anni, 4 anni, 5 anni che se ne parla, io particolarmente sono già sazio e ho paura e rabbrividisco solamente al pensiero che possono metterci mano. Però il fatto strano è che comunque la sinistra si parla di condivisione di riforme, di condivisione di motivi, però alla fine è la sinistra che vuole dettare l'agenda delle riforme. Mi sembra alquanto strano. Che significa la sinistra che vuole dettare le cose? Ma guardi, che significa la sinistra? Non mi pare che la sinistra vuole dettare. Nell'agenda delle riforme da modificare, la sinistra si è sulla condivisione delle stesse, la sinistra si è passa quanto mai ferma sull'agenda da andare ad approntare. No, guardi, ma Massimo, mai strano il fatto che voglio dire sia l'opposizione a dettare le regole. Ma chi è, ma quando mai? Ma quando è l'opposizione? Ma che sta dicendo Massimo? Non è affatto l'opposizione vuole dettare le regole. L'opposizione fa il suo gioco, è quello di dire non bisogna fare riforme a uso e consumo di Berlusconi, vogliamo dire la nostra, siamo contrari al presidenzialismo, siamo contrari a questo, ma insomma è il dichiarificio quotidiano senza alcun costrutto. La ringrazio, non mi pare che vogliano dettare le regole, dicono la loro, come avrebbe detto la sua il centrodestra all'opposizione. Roberto da Roma, buonasera. Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione. Grazie. Volevo intervenire sul discorso delle riforme. Anch'io sono perplesso come lei quando sento la parola riforme e vedo i dibattiti che scatena. E ritengo che probabilmente questo, diciamo, richiamare riforme, diciamo, di sistema su tutto l'ordinamento dello Stato non serva poi in questo momento più di tanto. E forse invece avremmo bisogno di riforme sul funzionamento della macchina pubblica, sul funzionamento, sulle regole del lavoro, sul costo del lavoro, le tasse, eccetera, no? Riforme per le quali forse, diciamo, chi è al governo ha una maggioranza cospicua che potrebbe fare tranquillamente, anche se magari cerca una condivisione, no? Sì, però, Roberto, ma ripeto, sì, è proprio l'uso della parola riforme che sì, è diventato ormai una sorta di mantra ripetitivo senza, certo, senza alcun senso. Non credo ci sia qualcuno che creda a un politico quando parla di riforme. La ringrazio, andiamo. Grazie, a Firenze. Simone, prego, ultimo intervento, perché c'è il GR che incombe, poi con tutti gli altri ci sentiamo dopo. Prego, Simone. Buonasera Luciani, senta, le dovevo parlare dell'abbonato del fatto. Sì, cioè, tenga a bada il cane, sì, però, perché altrimenti... Sì, c'è ragione. Ma no, perché a noi ci fa piacere sentire così delle voci anche degli animali, Però, ci vedrebbe anche voi. Per lei magari. Sì, no, diciamo che io da abbonato del fatto, anch'io sono rimasto deluso e vorrei essere una voce un po'... Ma deluso da che cosa? Che ho sentito finora. Nel senso che è inutile secondo me arrampicarsi sugli specchi, hanno sbagliato e a parer mio sono indifendibili. Detto questo però, quindi è inutile stare lì a dire, a menarla tanto, interpretare se quello è o meno un aiuto, bene o male lo è, secondo sì, me. Allora? Quindi devo dire che dopo un iniziale sconforto, dopo aver detto questa cosa, riflettendoci su, ho visto che praticamente questa notizia l'ho presa dal fatto. Lei dice riconosce l'ammissione di colpa, però ci sentiamo dopo, c'è il giornale radio. Siamo qui di nuovo alla Zanzara, 19:17, 800-24-00-24 è sempre il numero verde per le vostre telefonate, dove andiamo a sentire naturalmente i telegiornali delle 19, in particolare il TG3. Assalto al Parlamento in Thailandia, deputati in fuga in elicottero, scontri in Kirghizistan, ucciso un ministro, decine di morti. Il Quirinale firma la legge sul legittimo impedimento, ora collaborazione tra politica e autorità giudiziaria, Di Pietro al referendum. Napolitano sulle riforme, serve ampia condivisione, vertice Berlusconi PDL, il PD disponibile al confronto, ma si cambi la legge elettorale. Dopo la fase sperimentale somministrata a Bari, la prima pillola RU486 per l'interruzione della gravidanza. Gli ebrei al Vaticano, inopportuni paragoni tra l'attacco al Papa e quello a Pio XII. In Norvegia un vescovo confessa abusi e si dimette. Non solo l'editto bulgaro, anche quello parigino, licenziati in Francia i due cronisti autori del gossip su Carla Bruni e Sarkozy. Dopo anni di polemiche, giù un muretto esterno alla Rapacis, ok dell'architetto Richard Meyer alla modifica. Insomma, avete sentito cosa succede in Francia? Altro che Berlusconi, editti e cose del genere. Lì fare del gossip sul Presidente della Repubblica è un po' più pericoloso. Sky TG24. Il presidente Giorgio Napolitano ha promulgato la legge sul legittimo impedimento. Riforme e agenda fitta per Berlusconi, in bozza al Quirinale che invoca condivisione. In Norvegia un vescovo ammette abusai di minori, il Vaticano conferma la storia. La prima volta dell'RU486, oggi a Bari, aborto farmacologico per una 25enne. Si cerca la madre del neonato morto a Bergamo, gli inquirenti accettano delazioni. Rallenta la ripresa in Italia per l'Ocse, PIL a più 0,5% nel secondo trimestre. Kirghizistan, ci sarebbero oltre 100 morti, giallo sulla sorte di un ministro colpito. Assalto al Parlamento in Thailandia, le camicie rosse mettono in fuga deputati e ministri. L'Inghilterra si prepara al primo storico faccia a faccia elettorale, diffuso il calendario. Calciopoli, prime mosse ufficiali della Juve che chiede parità di trattamento per tutti. E siamo qui alle 19.20, iniziamo con chi? Beh, con una delle nostre preferite, il direttore dell'Unità, Concita De Gregorio. E come ritorna Concita De Gregorio? Naturalmente ritorna più o meno con lo stesso refrain. Per esempio la situazione degli italiani, definita, fotografata in questo modo. Ma guardi Floris, io sono un po' in difficoltà, diciamo, a tenere un livello di dibattito sui toni polemico-aggressivi oggi, perché noi stiamo parlando di centinaia di migliaia, di milioni di cittadini, stiamo parlando a loro che ci vedono da casa, che hanno veramente dei problemi gravissimi con la loro esistenza, sono, diciamo così, in un tunnel esistenziale, ciascuno nel suo. Il tunnel esistenziale, questa è meravigliosa, ciascuno nel suo, i cittadini italiani sono in un tunnel esistenziale. La ricostruzione all'Aquila, sempre secondo Concita De Gregorio. Guardi, anche questo caso dell'Aquila è un caso, è esattamente quello di cui parlavamo poco fa, cioè intanto c'è un grande equivoco sulla parola ricostruzione. La ricostruzione non solo non è neanche cominciata, ma non è stata nemmeno pensata. Quello che è stato fatto è stato togliere, eliminare il problema, metterlo, accantonarlo, prendere le persone e portarle fuori. Prendere le persone e portarle fuori. Quali sono gli insegnamenti che ci vengono dal governo, sempre secondo la De Gregorio, che ognuno pensa per sé? La responsabilità politica è quella di, come dire, di dare un messaggio costantemente agli italiani per cui è premiato chi se la cava da solo e chi pensa per sé. Allora, pensare per sé e quindi appunto il piccolo tranello, la truffa, esportare capitali, poi riprenderli pagando pochissimo, fare intanto la casetta e poi condonarla, cioè intanto mettersi avanti e poi dopo eventualmente vediamo, no. Perché tanto chi ha potere e chi ha soldi può rimediare. Camusso, CGL e l'auto da fè, sempre ieri da Ballarò, sentite. Quando si dice che le famiglie con il loro risparmio ce l'hanno fatta, siamo all'auto da fè, non al governo. Cos'è l'auto da fè? Che ognuno deve far da solo. Ok. L'auto da fè, secondo Susanna Camusso della CGL, è che ognuno deve fare da solo. Ma cos'è l'auto da fè? Ditemelo voi. E ditelo alla Camusso dopo, eh. Allora, i soldi, il finanziamento pubblico diretto e il finanziamento pubblico indiretto. Sento e vedo telefonate, mail e messaggi molto forti, molto polemici nei miei confronti. Avrei proposto una questione di cui si è occupato Facci, mica io, eh. Facci, ieri sera, mandate quello che volete. Io ho scritto che il fatto beneficia di oltre 600.000 euro all'anno di sgravi sugli abbonamenti postali, insomma, che sono i famosi finanziamenti indiretti, la dizione tecnica e contributi indiretti, che sono però anche quelli più complessivamente onerosi per il contribuente, sono quelli contro i quali Beppe Grillo, Compagnia Bella, fecero un frastuono d'inferno, chiesero un referendum abrogativo, insomma, cioè quando il classico grillino anticasta, insomma, incontra un giornalista, lo vuole accusare, gli dice sempre siamo noi che vi manteniamo, rivolto ai giornalisti in virtù di questo tipo di... Sempre Facci, mattina 5, noi non ci vergogniamo di prenderli. Libero, cioè, insomma, alla fine io l'abbiamo scritto che, vabbè, non è che tirano avanti con i soldi pubblici, però percepiscono anche questi soldi pubblici. E allora, reazione incredibile, del Fatto Quotidiano, ah ecco, ma parla Libero che prende i soldi pure lui, i finanziamenti diretti, cioè i soldi in quanto legato a una fondazione eccetera. Sì, ma Libero non è che neghi di prendere i finanziamenti pubblici, lo dice, li prende, la legge lo prescrive. Nel settembre scorso uno degli editori del Fatto, Poi Domani, l'abbiamo recuperato, ce l'hanno inviato gli ascoltatori, sentite, era tutto trasparente e chiaro fin dall'inizio. Settembre, che giorno? 18. Contributi che qualsiasi editore, insomma, di libri ha, per esempio il fatto di pagare l'IVA al 4% invece che al 20%, e su un importo, su un numero di copie forfettarie, cioè il 20% del distribuito, è una legge dello Stato a cui chiunque accede, ed ovviamente accediamo anche noi, come pure la riduzione o il rimborso del 50% delle spese postali e delle spese telefoniche. Questo sicuramente è automatico quando ci si iscrive al ROC, e la semplice iscrizione al ROC permette di avere il rimborso di quelle spese che le ho detto, quindi sarebbe sciocco rinunciarci, e questo non condiziona. Mi perdone, non mi riferivo alle agevolazioni automatiche, ma sì, a forme, sì, di sussidi che... No, assolutamente, no, assolutamente e no, totalmente, solo questo. Era questo che volevo dire, assolutamente. Grazie. Assolutamente. E siamo qui con una delle frasi del giorno, che è la mia in questo caso, ed è una citazione di Joseph Goebbels, il quale diceva: quando sento parlare di cultura metto mano alla pistola. Basta sostituire cultura con riforme, quando sento parlare di riforme metto mano alla pistola. È quello che sta accadendo, e dovremmo tutti mettere mano alla pistola, naturalmente in senso metaforico, quando sentiamo la parola riforme pronunciata dai politici. Sulle riforme emerge che c'è sintonia all'interno della maggioranza. Non c'è bisogno di regie dei singoli, se ci deve essere una regia deve essere del capo della coalizione, che è Berlusconi, e con un intervento importante del presidente della Camera Fini, che può svolgere il ruolo. Era Bocchino che diceva naturalmente che Fini deve avere un ruolo importante. Sentiamo adesso Luigi Zanda, Partito Democratico. Poi ci sono le grandi riforme istituzionali, sulle quali dovrebbe cessare la molteplicità di posizioni del centrodestra, e sulle quali Berlusconi... Bersani, che dice: se fatte per Berlusconi non ci sarà dialogo. Anche tutto questo discorso di riforme istituzionali, cioè, sia chiaro che se è per risolvere i problemi del paese siamo qui a discutere, se è per risolvere le aspettative di Berlusconi non vale la pena, eh? Io penso anch'io che sia ora di voltare pagina, non so se lo pensi Berlusconi. Allora, chiudiamo con che cosa? Perché le parole della politica ogni tanto sconfinano in ambiti che non dovrebbero essere toccati. Ricordate cosa disse Fabrizio Cicchitto, uno del PDL, dopo la vittoria elettorale? Disse: vincere in Piemonte è stato come uno stupro, se non sbaglio, o la Polverini o il Lazio, non so a chi si riferisse Cicchitto. Sentite adesso la metafora utilizzata da Roberto Cota a proposito del federalismo. Il federalismo alla fine è come un parto, si spinge a Roma ed esce nelle regioni. Bah. Se diciamo la nascita del federalismo possiamo rendere come la nascita di un bambino, c'è bisogno di qualcuno che spinga e qualcuno che lo tiri fuori. E si spinge da Roma e si tira fuori evidentemente dalle regioni. E rideva pure, secondo me, mi pare di aver capito. Tutto il partito è schierato per portare a casa questa delicata e fondamentale vittoria, vincere a Mantova. Ecco, cos'è rimasto al PD? Mantova. Io mi immagino Bersani che dice: oh ragazzi, ma non possiamo mica guardarci l'ombelico? Ma siamo pazzi? Mantova? Ma l'avete mai assaggiati i tortelloni che fanno a Mantova con la zucca? E allora, tra gli audio di oggi, tra le voci di oggi particolarmente rilevanti, c'è a grande richiesta la sindacalista della CGIL Camusso e l'auto da fè. Quando si dice che le famiglie col loro risparmio ce l'hanno fatta, siamo all'auto da fè, non al governo. Cos'è l'auto da fè? Che ognuno deve far da solo. Ok. E poi Concita De Gregorio e il tunnel esistenziale degli italiani. centinaia di migliaia, di milioni di cittadini che hanno veramente dei problemi gravissimi con la loro esistenza. Sono, diciamo così, in un tunnel esistenziale, ciascuno nel suo. Il tunnel esistenziale. 800 24 00 24, andiamo direi a Pistoia da Mauro. Mauro, buonasera, mi sente? Buonasera. Dica. Buonasera. La sento malissimo, Claudio da Vicenza. Sì, pronto. Dica. Buonasera, dottor Cruciani. Sì. Mi sente, sì. Sì, se lei avvicina la bocca alla... a, non so dove, alla cornetta o al telefonino, insomma, dove vuole. Telefono. A me mi sembra di vivere in un altro mondo. In che senso? Cioè, tutti questi chiacchieroni, no? Sì. Che si sente chiacchierare, destra, sinistra, centro. Sì. Cominciano a dire, ma il popolo si sta sempre impoverendo, la gente si impoverisce di più, dobbiamo fare qualcosa. Allora, vorrei suggerirle io a questa gente qua cosa devono fare. Suggerisca, suggerisca. Ecco, allora, prima cosa, i pensionati, no, quelli sì, che prendono la pensione, che hanno pensione bassa, eccetera, ma anche tutti i pensionati, perché la pensione praticamente è una cosa maturata che hanno versato e dopo... Vabbè, cioè, insomma, Claudio, cosa vuole fare con le pensioni? Non ho capito. Non è un reddito, cioè eliminare tutte queste tasse. Le tasse comunali, le tasse regionali. Guardi, non è che si possono eliminare le tasse tu cure, Claudio, bisognerebbe diminuirle, questo no, in assoluto, no, insomma, no, la pressione, guardi, fiscale. Guardi, Crociani, io conosco della gente che prende 700 euro, sì, no, e paga 50-60 euro al mese di addizionali, eccetera, no? Ho visto Rulino di va bene, Claudio, la sua ricetta qual è? Non l'ho capita ancora la sua ricetta. Intanto eliminare le tasse. Seconda eliminare cosa, le tasse non si può fare, legge, Claudio. Crociani, tutte quelle leggi di riaccumuli. No, perché sa, vabbè, che poi? Dopo, seconda cosa o terza cosa, chi lavora, sì, no, chi lavora dovrebbe dare i due terzi, cioè a dare un terzo allo Stato, due terzi ai cittadini. Dopo, un'altra cosa vorrei dirgli. Quando non ho capito niente, Claudio, mi scusi, non riesco a capire. Sì, mi spieghi bene quali sono i suoi suggerimenti? Cosa suggerisce lei? Mi dica. Un operaio prende 1.100 euro, sì, tra datore di lavoro e operaio stesso versa un altro 1.100 euro allo Stato. Ma com'è possibile? Sì, il costo del lavoro che è troppo alto, certo, certo, certo. Un'altra cosa. Sì, l'ultima, eh? Per esempio, mi lasci parlare. No? L'ultima, la sto lasciando parlare, dica Claudio, dica tranquillamente, dica. Per esempio, le ditte, no, hanno fatto scudo fiscale. Allora, hanno dato una mano a quelli che sono stati, dicono che siano evasori. Allora, potevano dare, quando hanno fatto il decreto, sì, una mano anche a tutte quelle aziende sane che fanno economia reale, persone fisiche e persone giuridiche. Sì, ma sono due cose diverse, lo scudo fiscale e gli altri provvedimenti. Claudio, guardi, devo dare la linea ad un altro ascoltatore. Giacomo da Roma, buonasera. Buonasera, Cruciani. Dica. Allora, io dico subito che trovo folle questa diatriba fra il fatto e Libero, in quanto che qui il vero problema non è dare i soldi agli editori, qui il vero problema è che non vengono dati i soldi ai disoccupati. Sì, però anche qui, Giacomo, mi scusi, cioè, sì, quando lei dice non vengono dati i soldi ai disoccupati, cioè, no, si può essere così generici, i soldi ai disoccupati, ma che vuol dire? Cioè, non vuol dire niente detto così. Però, ho capito, non vengono dati i soldi ai disoccupati, sono due partite diverse comunque, il finanziamento, diciamo, all'editoria, ma adesso ci arrivo, e poi il welfare state, diciamo, no? Le sovvenzioni. Il vero problema, guardi, arrivo all'osso, ecco, il appunto, vero problema è che noi abbiamo un capitalismo assistito dallo Stato da sempre. Qui abbiamo, ma questo può darsi che sia così, allora? Noi abbiamo i super ominidi di destra, sì, o i stronzi di sinistra tipo la De Gregori, ma senza nulla di personale. Beh, adesso lei ha dato della stronza, è un attimo. No, io ho dato non della sinistronza, che è molto diversa. Sinistronza, anche... com'è sinistronza? Sinistronza. La sinistronza. Non è male, però, sinistronza. Me la potrei rivendere. Assolutamente, gliela lancio apposta. E io voglio dire che questo capitalismo assistito, sia i sinistronzi sia i superominidi hanno dato i soldi alle cause automobilistiche, sì, e alle gente normale, cioè normale, a chi ha i soldi, per farsi l'auto nuova. Ai disoccupati non si è dato nulla. Questo vuol dire che a livello culturale e a livello antropologico c'è un problema di psicosi di realtà, i sinistronzi e i superominidi, Vabbè, adesso andiamo sugli superomiglia e si distrozzi. No, Giacomo, sì, cerco di tradurlo in linguaggio. Scusi un attimo, sì. Cerco di tradurlo in linguaggio un po' più volgare, dunque comprensibile. Lei dice: invece di così dividerci su questi soldi, finanziamenti pubblici o non pubblici, dati al fatto, insomma, non sono queste le cose importanti. Lo Stato non dovrebbe dare una lira alla libera impresa, e dunque ai giornali dovrebbe invece, insomma, se deve dare qualche soldo lo deve riservare, diciamo, a quelli che perdono il lavoro, eccetera eccetera, giusto? Questo è il suo ragionamento? Sia la sinistra, sia la Polverini che la Bonino hanno detto bisogna abolire la legge sul reddito minimo garantito, che fra l'altro hanno preso solo gli extracomunitari perché non c'era il requisito della cittadinanza qui nel Lazio, e solo 2000 persone fra l'altro, e bisogna dare i soldi alle imprese, cioè si rende conto l'unico strumento. Sì, ma non è che dare i soldi alle imprese significa darli in tasca agli imprenditori. Se io le do a lei i soldi per farsi la macchina nuova, lei è un morto di fame, mi scusi. No, vabbè, ma che c'entra? Ma si rimette in circolo anche l'economia in questo modo, no? In teoria si rimette in circolo l'economia, Giacomo. Però mi faccio dire l'ultimo. Scusa, però lei non mi ascolta, io sto ascoltando lei e non mi ascolta. Quando uno dice do i soldi alle imprese, dare i soldi alle imprese per produrre, per spingere al consumo, cioè, significa anche rimettere in circolo l'economia, o no? Allora, Cruciani, cioè non è che dare i soldi alle imprese significa darli in tasca agli imprenditori. Chi non sa come spendere. Le voglio dire solo un'ultima cosa. Mi dica. Sinceramente, lei dovrebbe, secondo me, riprendere gli ascoltatori che chiamano e fanno commenti sardonici e che lei, come dire, si accoda con i suoi sistemi sardonici quando si parla di Busi, quando si parla dei froci, dei gay, eccetera. Perché essere gay non vuol dire nulla, vuol dire che si è attratti dallo stesso sesso, ma che c'entra adesso questo argomento con quello che ha detto prima? Come io, per esempio, personalmente non ho nulla contro gli eterosessuali, non mi verrebbe nulla di fare. Perché io ho qualcosa contro gli omosessuali, mi scusi. La psicologia dice che chi ce l'ha contro i gay. Queste sono stupidaggini, ma secondo lei io ho qualcosa contro gli omosessuali? No, però guardi, 2 giorni fa ha chiamato un ascoltatore, dice: la sinistra se la deve smettere di pensare ai froci, non so chi ha, che altro, e lei ha sorriso. Cioè, questa è una sua interpretazione. Però io da omosessuale non è che mi offendo, non me ne frega niente. Ma guardi, però, io non ridevo. È una persona anche se è contro il matrimonio omosessuale, però penso che come vecchia radice pannulliana. Giacomo, ho capito benissimo. Guardi, io non ho nulla. Di Fidel Castro, sì, ho capito. Giacomo, un attimo, si fermi. Allora, questo è il libertario. Tutti burattini. Ecco, appunto, adesso dimostri lei di essere un minimo libertario, perché va avanti senza trattenere il respiro. Grazie Giacomo. Comunque non ho, come è evidente, nulla contro gli omosessuali. Poi cosa significa avere qualcosa contro gli omosessuali non lo capisco nemmeno. Daniele da Milano, buonasera. Buonasera, io intervengo per la vicenda di Sarkozy, che avrebbe licenziato dei giornalisti, se ho capito bene. Perché adesso non è che li ha licenziati direttamente lui, diciamo ha fatto delle pressioni perché siano licenziati, questo si legge su tutti i giornali. Sì, infatti l'avevo visto anche su internet del Corriere. Quello che non accetto è questo parallelo che anche lei ha tentato di fare con Berlusconi, nel senso di dire: avete visto, in Francia sì, Sarkozy sì che licenzia i giornalisti, altro che Berlusconi. Ma io dico una cosa, quello di Berlusconi non era gossip, era una notizia. Sì, no, ho capito, ma non volevo entrare adesso nel merito di questa cosa. Ho detto semplicemente che il ragionamento era molto semplice. Tutti gli uomini politici, diciamo, di alto livello, capi di governo, eccetera, ma in generale tutti i politici non sopportano l'informazione libera, o comunque non sopportano le critiche che si fanno. Chi più, chi meno, utilizzano tutti delle armi per limitare i danni. Sarkozy le ha utilizzate di recente, come si legge. Può darsi, sì, effettivamente. Punto. Evidentemente è così, è anche umano. E diciamo, anche Berlusconi utilizza anche le armi che ha a disposizione. Dire, posso, se permette, sì, che un capo di governo di un paese occidentale che frequenta prostitute, organizza feste con prostitute. Ma adesso questo che vuol dire, Daniele? Ma che, no, che, no, mi permette, qual è il punto? Non è questo questa il punto, stiamo parlando di un'altra cosa qui, stiamo parlando di un'altra, no, cosa. Ma io parlavo di questo. E allora parli del gossip di Berlusconi che frequenta le prostitute, no, avanti, su, è vada. Che sto dicendo. Gossip, questo notizia, quello che vuole, gossip, no. Va bene, non è gossip, è una notizia, allora benissimo. Notizia. Dunque, mentre invece sproloquiare sulla Carla e Sarkozy è gossip, è gossip, me. Va bene, d'accordo. Va bene, grazie. Va bene, ho capito che vuole dire, Daniele. Sì. Cioè, le notizie su una presunta separazione tra Carla Bruni e Sarkozy sono gossip. Le frequentazioni di Berlusconi, prostitute, eccetera, non sono gossip. Sono notizie. Questo vuole dire lei, no? Sì, sì. Ma io non volevo fare nessun paragone tra le notizie che sono uscite in Italia e le notizie che sono uscite in Francia. Sto dicendo che in Francia succede una cosa che... Appena il presidente viene criticato su qualcosa, i giornalisti non se la passano molto bene. Mi sembra, mi sembra di aver capito. O no? No. Non è così. Non è la stessa cosa. Ma non è che ho detto, non ho detto che è la stessa cosa. Non ho detto che è la stessa cosa. Ho detto che addirittura peggio. Per certi versi addirittura peggio, se vuole. Senta, secondo lei Sarkozy fa pressione per licenziare tutti i giornalisti che esprimono liberamente la loro opinione sul suo governo? Beh, insomma, no, sul suo capo del governo. Sul suo governo no, però certo scrivere qualcosa su Carla Bruni e Sarkozy mi sembra che non sia semplice a Parigi e dintorni, o sbaglio? No, ma risponda a me. Siccome Berlusconi ha fatto... Guardi, l'altro giorno caro Daniele, l'altro giorno il portavoce di Sarkozy, dell'Eliseo, oggi smentito da Carla Bruni, peraltro, che non ha parlato, che dice parlare di complotti è sbagliato, pochi minuti fa lo ha detto Carla Bruni in un'intervista a Europe One, l'altro giorno il portavoce del governo Sarkozy, pensi, immagini un po' cosa sarebbe accaduto in Italia, il portavoce di Sarkozy, comunque uno dei portavoci dell'Eliseo, oltre a parlare di complotto, c'è un complotto addirittura dalla finanza contro Sarkozy, contro il presidente della Francia, ha detto siamo noi che dobbiamo essere duri nei confronti dei giornalisti, gliela faremo vedere. Va bene, grazie. 800 24 00 24, parliamo di Napoli. Perché parliamo di Napoli? Perché la Lega si propone per candidare un suo uomo a sindaco di Napoli. Alessandra Mussolini, che succede? Una cosa possibile oppure una butade lasciata lì, buttata lì dal ministro Maroni? Ma secondo me non è una butade. All'inizio io l'ho letta come una provocazione. Invece secondo me è un segnale politico preciso, esplicito, da parte della Lega per dire adesso scendiamo, cioè dalla Padania scendiamo al centro, già lo stanno facendo, quindi non è, e fino al sud, quindi non è assolutamente più un partito del territorio, del nord, confinato al nord, ma è un partito in piena espansione. Allora però io ho fatto una provocazione, però non hanno spirito, non hanno ironia i leghisti, ho detto dovranno passare sul mio corpo, allora ho detto vorrà dire che passerò alla Lega e mi candido sindaco di Napoli. Perché lei si vuole candidare per Apriticello. No, ma oggi ci sono reazioni su questo. Mamma mia. Senta un attimo, ma lei mi dica la verità, adesso insomma, le faccio una domanda un po' così, un po' delicata. Ma si vuole davvero... Ma delicata? No, ma davvero, davvero... No, ma davvero niente. Ma è un suo sogno o no? Ma diciamo che c'è questa cosa con Bassolino da tanto tempo, che praticamente... Che c'è con Bassolino? C'è questa sfida aperta quando mi candidai al sindaco di Napoli e non riuscimmo mai a conquistare questo comune, adesso c'è la Iervolino. Di quanto perse lei con Bassolino? Di poco, e mi sembra. Arrivai con l'MSI al 32%. Ah, con l'MSI al 32%. Con l'MSI io avevo solo l'MSI e lui aveva, credo, 7-8 liste che lo appoggiavano. E quando Fini si candidò contro Rutelli e perse anche lui per pochissimo, no? Però fu il lancio dell'MSI, poi diventò AN. Vabbè, ma insomma, questa fissazione ancora ce l'ha lei in testa? Con la fissazione. Un po' sì, beh, insomma, per carità, ma la fissazione è... La vita dice, si vuole togliere così, se fa politica, io lo faccio da tempo, mi piace, ci si deve anche divertire, perché io le cose le faccio anche se mi diverto. Se non mi diverto non le faccio volentieri, non mi piace. Si parla però di Mara Carfagna come possibile. Sarebbe bellissimo, così lei lo fa e cominciamo a vedere un pochino la luce lì a Napoli. Ah, per cui lei non è in realtà, non è che ce l'ha con la Carfagna, avete un buon rapporto? Un buon rapporto no. Non ce l'avete? Non ce l'abbiamo. Non ce l'avete. Però non è che in politica uno deve avere per forza buoni rapporti. No, però per carità. Se le aspirazioni sono legittime da parte di tutti, mica si parla della Carfagna, si parla di altri deputati, di altre sì. persone. Insomma, io credo che poi alla fine si debba scegliere la persona o la donna o l'uomo migliore. Però la Carfagna ha preso un sacco di voti, Infatti, quindi io credo che proprio sia una cosa bella se poi lei fa il sindaco di Napoli. Ma come? Pensavo che insomma, tra voi c'era qualche problema, invece lei è così. No, ci scherziamo, a me non mi importa, a me basta se riusciamo a togliere il comune di Napoli alla sinistra e poi sceglierà il PDL. Lei ha preso 55, la Carfagna dico, 55.000 preferenze, lei ne ha prese 15.000, sì, vabbè, ma... è accoppiata con tutti, perché... In che la senso? Legge... Perché come se lo spiego? Perché la legge della regione, e che devo dire la verità, Bassolino ha fatto una buona legge, ecco, lo devo ammettere, perché si votava per un uomo e per una donna, quindi sono entrate tante donne in altre regioni proprio per niente, invece in Campania sì, e c'era l'accoppiamento, cioè tu dovevi accoppiarti con insomma. C'era il fatto che se ti accoppiavi con i vari candidati eri trascinata e prendevi voti. Lei si è accoppiata praticamente con tutti, io con nessuno. Io ho preso i miei bei 16.000 voti fuori sacco e ne sono molto orgogliosa e ringrazio tutti i campani e i napoletani. Vabbè, sono tanti, comunque si è accoppiata con tutti, non è un'espressione felicissima. No, l'accoppiamento era proprio accoppiamento elettorale, diciamo. Doveva dire accoppiamento elettorale, si è accoppiata politicamente. Certo. Mica è una cosa di specifichiamo che in questo periodo è stato un bel risultato, io sono molto contenta e soprattutto se noi riusciamo a prendere l'anno prossimo il comune di Napoli, questo sarebbe una soddisfazione enorme. Già ma se perdete a Napoli l'anno prossimo, Napoli ormai Napoli, no? Napoli. Allora c'è stata la Lega che ha detto Napoli, è quello che ha lasciato tutti un po' di stucco. Ma qualcuno sostiene, leggo da qualche parte, insomma, magari napoletani che ci hanno scritto, eccetera, magari così viene a mettere un po' di ordine. Ma insomma, chi è il leghista, secondo lei, che potrebbe fare il sindaco di Napoli? Oppure, come dice De Crescenzo oggi a Corriere della Sera, una cosa impensabile, che sono comunque come mentalità lontani mille miglia. Prima di tutto devono avere lo spirito, che secondo me non hanno, perché se non hanno apprezzato la mia battuta, loro devono entrare nello spirito napoletano, sono troppo rigidi. Non sono molto spiritosi. Allora, prima di tutto i napoletani hanno lo spirito, sono generosi, è un popolo particolare, di grande sensibilità, lo sapranno fare, sono in grado loro, perché loro sono le regole, le cose, questo va benissimo. A Napoli soprattutto. Pure scontrare due proprio modi di pensiero e ne può nascere una cosa stupenda, perché no? Senta, la però politica è anche questo. Ma lei mi deve smentire una cosa, però, che sono uscite delle voci che riguardano questo non lo so, abbandono del PDL. Come mai? Sì, è uscito su un sito, veramente. Sì, è uscito su un sito su Dagospia. Forse è un auspicio di qualcuno. Però devo dire che in genere questo sito si azzecca sempre, stavolta ha toppato. Lei non esce dal PDL? Io non vedo perché dovrei uscire. Che ne so, la motivazione che dice... Coccolata da queste due splendide persone, uno è Silvio Berlusconi, l'altro è Gianfranco Fini, chissà meglio di me. Però scusi, in questo sito cos'è che scrivevano? Che vabbè, la Santanchè è la sua, diciamo, in questo momento la sua avversaria, è diventata sottosegretario. La Carfagna prende un sacco di voti, è in corsa, pare comunque quella che ha preso molte preferenze in Campania. Ci sono altre donne in rampa di lancio, come dire, ma lei non ha bisogno di lanciarsi ormai, no? Ho già blanciata, io voglio un cuscino morbido sul quale atterrare. Poi nella vita uno deve fare anche le cose belle, per me la prima cosa che c'è è la famiglia, perché mi ha dato sempre una forza, la forza di andare avanti, la forza, la famiglia unita. Il resto, la politica è per me come, diciamo, è un lavoro, quindi se ti dà soddisfazione bene, quando non ti dà più soddisfazione, che vedi che ci sono nemici dappertutto, cose che ci sono. Ma in questo momento il suo nemico principale è la Santanchè, non è che ce ne sono anche la Carfagna un po'. Veri, queste sono bagatelle. Bagatelle, sono... certo. Ma con la Carfagna lei ci parla o non ci parla? Questo vorrei capire. Non ci parliamo. Non vi parla. Ma non vi parlate così perché non vi siete mai parlate, perché oppure perché è successo qualcosa? Secondo me, io vado anche un po' simpatie, antipatie, sono fatta così, purtroppo è un mio limite. Allora, se una persona è solare, ti parla, ti sorride, ti fa, io subito sono invogliata, è un po' come i napoletani. Se invece uno se la tirichietta, cioè se uno è un se po' la tira un po', se la tirichietta, allora io non ce la faccio. Però la Carfagna, infatti la Carfagna è poco napoletana, è poco napoletana, ecco, da questo punto di vista. È poco napoletana, po' algida. Lo sai che è più padana e che non napoletana. Sì, sì, non è solare. Sembra, è un pochino rigidina, ma questo forse perché è da poco. Ma doveva diventare portavoce del PDL, poi non si è più fatto nulla. Può fare tutto, lei può diventare anche Presidente del Consiglio, secondo me. Vabbè, questa è una battuta, su. No, Veramente. Le porte per lei sono spalancate. Da che cosa? Da le porte spalancate. Per meriti, per meriti suoi. Certo, per meriti. Per meriti. Certo. No, per meriti, dicevo, per competenza, per presenza, per che cosa? Per tutto. Perché uno fa una carriera così bella, solare, politica, perché non può diventare anche domani papa? Che ne sai? Ratzinger ha detto apriamo alle donne, potrebbe essere anche questo, carino. Sì. Papa donna, così c'ha l'uomamiz. La Carfagna. Ma sto scherzando. Ma sì, scherzando. Sì. Va bene, la ringrazio come al solito. Grazie a presto. Buona serata. A presto. 19.56 800 24 00 24, andiamo direi a Cagliari da Francesco. Eccoci, allora. Francesco, cosa ci vuole dire? La politica è fatta di questi personaggi qui, di queste inimicizie, di questi scontri, di queste piccole cose, anche di queste cose qui, no? Allora, perché uno dopo dice bisogna tagliare il numero dei parlamentari? Bisogna drasticamente tagliare il numero dei parlamentari, e non lo fanno mai. Sì, ma dobbiamo tagliare il numero di parlamentari, di quali parliamo? Di quelli nominati o di quelli che dovrebbero essere eletti? Vabbè, ma lei vuole andare sul serio adesso, la legge elettorale ancora, questa legge elettorale abbiamo. Vorrei andare sulla Costituzione. Mi dica, Francesco, su cosa voleva intervenire? Volevo intervenire sulla firma al di Napolitano. All'illegittimo impedimento. Anche se la vuole prendere con Napolitano, è uguale alla Schifani, è uguale all'Alfano. È uguale. Vedremo cosa deciderà la Corte Costituzionale. Ma si sa già, è solo per prendere tempo, ma comunque quello che conta. No, può darsi, Francesco, non è escluso che sia così. Se serve per riformare e si pensa che sia legittimato un Parlamento di nominati a riformare la nostra Costituzione, siamo veramente. Però, mi scusi, Francesco, lasci perdere la legge elettorale, i nominati, quello è un altro discorso. Lei dice il legittimo impedimento è sicuramente anticostituzionale. Dunque, le faccio una domanda: Napolitano ha fatto bene a firmarlo o no? Ha fatto malissimo, perché si rimandano indietro certe cose, non si firmano così di primo acchitto, a parte che deve ancora chiarire. Beh, di primo acchitto, non mi sembra che sia una cosa proprio ancora fatta cotta e mangiata, insomma è una cosa che ci ha messo anche del tempo per firmare. Ancora non si è chiarito come è stato firmato il decreto sul coso elettorale, ancora non si è capito, perché se è vero che il governo era lì ad aspettarlo, su un appuntamento e dopo mezz'ora è uscito con un decreto. Ma quella è una stupidaggine messa in giro, non mi ricordo da chi, quella che erano sotto ad aspettare Napolitano, per carità. Carlo Magno l'ha detto, bravo, me l'ha ricordato lei. Francesco, sentiamo insieme i titoli dei TG, poi magari ce li commentiamo anche. 800 24 00 24. Siamo qui, cosa abbiamo? Il TG5. Il legittimo impedimento è legge, al Quirinale la bozza di riforme della maggioranza, meno parlamentari, Senato federale ed elezione diretta del capo dello Stato. Napolitano si cerchi la più larga condivisione. Stato d'emergenza e coprifuoco in Thailandia, a Bangkok le camicie rosse irrompono in Parlamento, politici in fuga sugli elicotteri, colpo di Stato in Kirghizistan. A Bari il primo aborto farmacologico con la pillola RU486, la donna resterà ricoverata 3 giorni, ogni regione deciderà le procedure. Senza nome la madre del neonato trovato morto a Bergamo, c'è chi ignora che si può partorire nell'anonimato, darli in adozione, ma anche che esistono le ruote. Al TG5 nuove rivelazioni sul delitto inglese nel quale fu coinvolto Danilo Restivo. La polizia avvertì la moglie che era pericoloso, sotto le unghie di Elisa Claps le tracce del suo assassino. Basta pettegolezzi, Rachida Dati stronca i gossip sul suo ruolo nella presunta crisi tra Sarkozy e Carlà. Per noi, commenta la Bruni, sono solo sciocchezze insignificanti. Dopo i 4 gol all'Arsenal, Leo Messi, frontboliere del Barcellona, è paragonato a Maradona. Bene, dove andiamo? Direi di andare con il TG1. Kirghizistan, sanguinosi scontri tra manifestanti e polizia. Thailandia, assedio al Parlamento, ministri fuggono in elicottero. Napolitano firma la legge sul legittimo impedimento e dice le riforme siano condivise. Berlusconi proposte dopo consultazioni. Romperemo i denti all'America, il presidente iraniano minaccia Obama dopo il suo piano sul nucleare. Blitz dei carabinieri all'ospedale di Chivasso, tra i malati che prendevano i pasti una donna in barella morta da ore. Niente mensa per chi non paga la retta, era successo in una scuola del Vicentino, il nuovo caso in provincia di Brescia. Caso Clubs in Inghilterra, interrogatorio di Danilo Restivo, unico indagato, troupe del TG1 aggredita davanti alla sua casa. Tempo di diete, c'è perfino quella paleolitica, centri estetici, i titolari dovranno risarcire i danni ai clienti, lo ha stabilito la Cassazione. Va bene, direi di tornare con Francesco da Cagliari. Come ha sentito Francesco, il TG5 è aperto sul legittimo impedimento, mentre il TG1 sul Kirghizistan. No. Sul colpo di Stato. Col colpo di Stato. Però vede, in questo caso il TG5 ha fatto un'apertura, diciamo, sulla notizia del giorno, che è indubbiamente questa, quella del... quella della firma di Napolitano, mentre il TG1 ha messo prima il Kirghizistan del colpo di Stato, che pure è importante per carità, e dopo il legittimo impedimento. Vabbè. Siamo appunto allo stile Minzolini e questa condivisione. Vabbè, adesso non esageri, adesso mettere prima vabbè, insomma, è un modo di impostare il giornale che ha una linea politica ben chiara, non è che sia... Scusi, però ha messo prima il Kirghizistan e dopo il legittimo, non è che il legittimo impedimento alla firma di Napolitano, anche perché la firma di Napolitano è favorevole a Berlusconi, la firma di Napolitano. Siccome sta firmando tutto, qui c'è una Costituzione scritta che viene omessa continuamente. No, mi scusi, questo lo deciderà la Corte Costituzionale. Adesso, parlare di federalismo quando la devolution è stata bocciata dal popolo sovrano col referendum confermativo, che è il secondo tipo di referendum che il popolo sovrano ha in mano per esercitare la democrazia. Vabbè, non è che non si possono adesso fare le riforme perché è stata bocciata la devolution. Ma le riforme non le vuole nessuno. Ma questo lei ha ragione, cioè non è che non le vuole nessuno. Elettorale. Ci sono sempre meno elettori, sono sempre meno legittimati. Questa è proprio la fine del teatrino. Dai, con questa legittimazione. Il colpo di scena finale. Ma no, le riforme non le vuole nessuno. Noi vorremmo semplicemente una Costituzione applicata, soprattutto per il popolo sovrano. Ma io non credo che la gente vuole la Costituzione applicata. Ma come Francesco, no? Se noi applicassimo la Costituzione, i bambini, non si parlerebbe di bambini che se i genitori non pagano rimangono senza mangiare nella mensa. Ma stiamo scherzando. Francesco, mi scusi. I bambini, Francesco, non dovrebbero pagare niente. Francesco, sono il massimo, Francesco, il bene massimo comune se la Costituzione fosse applicata, i bambini, primo, i bambini non è vero che rimangono a pane e acqua. Queste sono stupidaggini messe in giro da gente che non... Ho sentito l'intervista del sindaco che si è vantato, ha detto no, il sindaco, famiglie che facevano i furbi, quando i furbi lo fanno i comuni che fanno pagare le famiglie. Francesco, che lasci perdere, come una somma, come se fosse sul groppone delle famiglie un basto proprio per aggravare ancora di più la situazione economica tra le persone. Francesco si calmi. Non è così. Si calmi dall'infervoramento, voglio dire. Sì. Allora, i bambini innanzitutto mangiano e non vengono messi a pane e acqua né in provincia di Vicenza né adesso in provincia di Brescia. C'è qualcuno che non paga le rette. Allora, ogni tanto qualche sindaco si arrabbia. Punto. Ma non è che si lasciano i bambini morire di fame, come diceva Rosi Bindi in una trasmissione di Porta a Porta di qualche giorno fa. Per cui lasci perdere. Poi la Costituzione cosa c'entra con il pagamento delle rette? I diritti inalienabili del popolo sovrano partono dai doveri. Noi siamo pieni di doveri. La Seconda Repubblica ci garantisce i doveri e pretende che i diritti ci siano guadagnati, come eravamo al tempo del Risorgimento, dove su chi lavorava. Siamo andati al Risorgimento. Chi lavorava si doveva arrangiare. Allora siamo andati a parare al Risorgimento. Siamo andati a parlare al Risorgimento. No, siamo arrivati che ci vuole un movimento di cittadini con la Costituzione in mano che vanno a votare come dovere civico, come scritto nell'articolo 48. Noi abbiamo un discorso. Vabbè, vanno a votare allora. Lei sul voto, lei mi aveva detto che il voto, dove c'è scritto che non si vota per interesse personale? Se lo ricorda quando c'era quel politico di Forza Italia che aveva mandato la lettera agli elettori e ai suoi elettori, che lui non interveniva se non lo votavano, se non gli dava il codice fiscale. Sì, sì. No, ecco, il codice fiscale, che codice fiscale? E lei, abbiamo finito la telefonata con lei che mi ha detto. E chi l'ha detto? Che dove c'è scritto che il voto non si dà per cosa personale? Ma no, ma il voto si può dare per mille motivi. L'articolo 48 della Costituzione. A ridaglia con sta Costituzione. Francesco, ma lei pensa che la Costituzione sia un mantra così che sia ma là? Penso che... un popolo senza Costituzione no, non sia qualcosa che si può utilizzare, si può utilizzare in qualsiasi momento per qualsiasi discorso. Francesco, vabbè, la ringrazio, grazie. Enzo, grazie, provincia, Enzo, provincia di Palermo. Sì, buonasera, dottor Luciani. Dica, Enzo. Per avermi chiamato, dato che era caduta la linea. Dica, Enzo. Allora, certo, se fino adesso si fanno ragionamenti di puri comunisti e non di sinistra, facciamo ragionamenti liberali, no? Allora, io ho ascoltato per caso, diciamo che la sua trasmissione l'ascolto quasi sempre ogni sera, diciamo, no? Però giusto vado a accendere la nostra nuova macchina e c'era la De Gregorio. Dico, ma questa direttrice dov'è che sta? Chi gliel'ha messa? Sì, però Enzo, scusi un attimo, adesso se vogliamo parlare seriamente, bene, se lei deve cominciare a dire chi ci ha messo questo, chi ci ha messo l'altro, non è che noi mettiamo, facciamo ascoltare delle cose per poi... No, non parlo per lei, intendiamoci. No, non è che noi facciamo ascoltare delle cose e poi arrivano insulti nei confronti di queste persone. Se vogliamo provare a fare un ragionamento, bene, altrimenti... Sì, no, per carità, ci mancherà. Allora, qual è, che cosa contesta lei? Cosa contesta lei, Enzo? Allora, no, io contesto... Cioè, non c'è niente da non ho niente da contestare. E allora, scusi, mi faccia mandare la pubblicità. Siamo qui alle 20:10, 800 24 00 24. Andiamo a Milano, Ippolito, buonasera. Sì, Cruciani, buonasera. Dica. Prendo a prestito la vostra sua metafora divertente sulle riforme e la pistola. La mia, le faccio anche una mezza domanda, ma questa pistola verso chi la puntiamo? Perché così, da un certo punto di vista, ho sentito prima il radiogiornale e le riforme di cui si parla, di cui il governo parla, erano nell'ordine, se la memoria non mi inganna, sì, erano giustizia, presidenzialismo, federalismo e fisco. Non so se fisco sia all'ultimo posto perché è quello meno importante o perché, boh, non lo so, mi sembra... Ma non c'era un ordine temporale? No, certo che non c'era, però c'è da domandarsi... Era l'ordine fatto dai telegiornali? No, certo, però lei lo sa meglio di me, cioè di questi quattro temi, il tema più concreto a mio modo di vedere, e lo dicono le statistiche, sarebbe il fisco. E quindi da un certo punto di vista la pistola magari la puntiamo verso un governo che vuole fare questo tipo di riforme o che dice di voler fare questo tipo di riforme. E poi però mi domando anche, ma come fa la sinistra a perdere le elezioni? Con di fronte a una maggioranza, a un governo che ha questo tipo di come possiamo chiamarlo, di piattaforma elettorale, questo tipo di programma elettorale, non lo so. Alla fine, evidentemente di fronte agli elettori italiani è meno credibile rispetto agli altri. Sicuramente glielo dice uno di sinistra, glielo dice uno di sinistra, però è drammatico, quindi alla fine al mio è un po' una buttata, mi agganciavo alla sua ironia, sì, e dico, ma verso chi la puntiamo questa pistola? Verso il governo? Beh, innanzitutto la pistola era una metafora che non volevo, certo, che non volevo, certo, ma no, ma lo ripeto, mica perché lo dice lei, perché sono stato io a dirlo all'inizio. Avevo detto che la citazione di Goebbels era, non era naturalmente da prendere alla lettera, però è la prima cosa che mi è venuta in mente e l'ho detta. Comunque là è da puntare, era da puntare contro chi continuamente pronuncia la parola riforme alla fine senza costrutto, senza che ne esca fuori qualcosa di concreto. Che ne so, vogliamo eliminare il numero di parlamentari, basterebbe una cosa portata però avanti fino in fondo, anche perché dire presidenzialismo, semipresidenzialismo non significa nulla. Introdurre l'elezione diretta del capo dello Stato, come ho sentito prima da un titolo dei telegiornali, è una cosa di una difficoltà pazzesca. Cioè, bisogna cambiare tutto l'ordinamento. Come si fa a proporre l'elezione diretta del capo dello Stato? In questo sistema non si può, nel sistema parlamentare italiano. Se uno riforma tutto il sistema e concepisce un altro ruolo per il governo, per il Presidente del Consiglio, allora sì, ma sono cose che non si faranno mai da qui ai prossimi 3 anni. Grazie. Mauro da Pistoia. Sì, Cruciani? Sì, sono io. Sì, buonasera, sono Mauro, appunto. Volevo ragionare, se è vero naturalmente, della proposta che il ministro Alfano avrebbe fatto di rimettere il tabellario dei minimi per gli avvocati. Sì, ho letto anch'io sul Corriere della Sera l'altro giorno. Allora? Ecco, mi aspettavo da questo governo di centrodestra che mettesse mano, perché credo che sia importante mettere rimane nel rapporto tra il cliente e gli avvocati, ma non certamente in questa maniera. Non mi sembra che questa sia una categoria che abbia bisogno, soprattutto come al primo posto, di essere protetta in tal senso. Voglio fare un esempio. Sì, ma la protezione, mi scusi un attimo, la protezione degli avvocati non è che sia nelle tariffe minime. Per me non ci dovrebbero essere queste tariffe minime. Condivido con lei. Cioè, non è la cosa principale questa qua. Non credo nemmeno che le tariffe minime, come ho sentito dire al ministro o a qualcuno, abbiano in realtà sfavorito il cliente. Questo non credo proprio. Semplicemente bisognerebbe riformarla. Di chiarezza tra le parti. Cioè, faccio un esempio: se io vado dal mio avvocato e dopo aver esposto il mio problema, questo mi dice la legge cosa dice, confronto al mio problema e mi mette per iscritto la possibilità che ho di vincere o di perdere, e soprattutto se perdo quanto mi costa. Se vuole gli faccio diversi esempi di cause proprio scemenze di Popolino, quanto sono venute a costare. Quello però, mi scusi Mauro, spetta alla competenza del singolo avvocato, al tipo di rapporto che si instaura tra l'avvocato e il cliente. Certo, basta fare una legge che è obbligatorio questo rapporto. Cioè, è obbligatorio che cosa? È obbligatorio il fatto che se si perde una causa, diciamo, il pagamento dell'avvocato è previsto in maniera diversa. Non ho capito cosa vuole introdurre lei, Mauro. No, volevo dire questo qui, che l'avvocato mi dovrebbe dire subito, in caso di perdere la causa, quanto mi costa e la possibilità che ho di vincere o perdere. Ho capito Mauro, mi scusi, ma magari noi tagliamo i tribunali per cause che non hanno proprio costrutto, non hanno senso. Sì Mauro, però ripeto, spesso l'avvocato non è che può quantificare esattamente poi la perdita di una causa in maniera precisa. Insomma, ci sono variabili che possono intervenire durante un procedimento. La ringrazio. Eccoci qui, 20:17, 800 24 00 24. Franco da Taranto, buonasera. Buonasera dottor Cruciani. Senta, dica. Io la telefono per dirle che ho visto in lei questa sera un po' scettico sulle riforme. Molto scettico, sì. Molto scettico. Allora questo vuol dire che questo paese non crescerà più. Cioè, mi scusi Franco, però io non dico, non è che non mi fa nessuno, se lei, sì, anche lei è scettico. No, guarda, anch'io, io non conto niente, Franco. Il punto lo è un altro. So, il punto è un altro. Anche capire, arrivato a sto punto, siccome che questo governo. Sì, ma di quali riforme si sta parlando? E poi, ripeto, la parola riforma mi sembra strabusata, per cui se ne parla e poi non c'è niente di concreto. Si parla di bozze, incontri. Sì, ma in effetti, dottor Cruciani, che io sappia, da molto tempo queste riforme in Italia non sono state mai fatte riforme. Ma di che tipo? Siamo andati avanti sempre così, vuol dire che queste casse che ci sono continuano a stare, sia in magistratura, sia nei politici, sia negli enti pubblici, un po' ovunque. Cioè, sì, ma quella è un'altra cosa, si tratta della riforma, diciamo, delle professioni, queste cose qui, per aprirle un po' di più, ma questo per carità, con me sfonda la porta aperta, Franco. Ma bisogna fare delle cose. Come dire, ognuno ha la sua riforma da proporre in questo paese, sì, no? Sì, ma in effetti lei ha ragione su questo, però perlomeno ognuno ha la sua, tutto a scapito del sistema, del paese. Cioè il problema è questo, non solo noi fino a che punto che possiamo andare avanti, sia io che ho già una certa età. Guardi, ma Franco, anche i giovani che vengono fuori. Io non sono così catastrofista come lei sulla situazione del paese, e come lo sono molti. Però se non si fanno le riforme stiamo sempre punti. Ma lei che riforma farebbe? Siccome parla di riforme, che riforma farebbe? No, mi faccia un esempio allora. Com'è? Mi faccia un esempio, che riforma farebbe lei, Franco? Innanzitutto la riforma del federalismo fiscale. Ma quella la stanno facendo più o meno con fatica, con lentezza, eccetera. Sono pienamente d'accordo. D'accordo, ma questa... Ho capito Franco, quella più o meno con lentezza la stanno facendo. Poi? Anche sulla giustizia, perché effettivamente anche i magistrati devono effettivamente assumersi le loro responsabilità. Ho capito, ma dire in generale la riforma della giustizia non significa niente. Lei cosa farebbe? La prima cosa che farebbe qual è? Prego? Sulla giustizia cosa farebbe? Cosa farei sulla giustizia? Cioè, in effetti, sulla giustizia la divisione delle carriere che è molto importante. E poi snellire un pochino, cioè mettere in modo questi magistrati di snellire le cause. Ho capito, Franco, ma vede che ognuno poi ha la sua agenda per quello che riguarda le riforme. La ringrazio. 800 24 00 24. Collegamento con Cuneo, con il presidente della provincia di Cuneo. Gianna Gancia, buonasera. Buonasera, signor Crociani, a lei e a tutti gli ascoltatori. Come sta? Bene. È al lavoro ancora? Siamo ancora al lavoro, sì. Perché io leggo qui da un libro della mia amica Cristina Giudici, che ha scritto un libro leghiste per Marsilio, dove c'è un suo ritratto, sì. Che lei è una staconovista, assolutamente. Quante ore lavora al giorno? Beh, la provincia è grande, la provincia di Cuneo è più grande di certe regioni, per esempio della regione Liguria, quindi ci si aspetta un lavoro importante dagli amministratori. Io le farei fuori le province per quello che mi riguarda, per carità. Per lei sono importanti invece? Per me sì. Bisogna eliminare un po' di livelli di governo. Ci sono troppi livelli di governo, dalle comunità montane, i parchi, ci sono alleato. Però le prime cose, la provincia no, le province bisogna tenerle tutte? Oppure... La provincia di Cuneo, le faccio conto, ripeto, che è più grande di certe regioni, ha più comuni per esempio della regione Toscana. No, però lo sa, da sempre si pone questa, no? La politica dice destra e sinistra, la Lega no, è sempre stata abbastanza contraria, i politici di sinistra e di destra dicono da un po' di tempo bisogna eliminare le province e poi non fa niente nessuno, anche Berlusconi lo disse in campagna elettorale, lo disse pure Veltroni nell'ultima campagna elettorale, la Lega su questo è sempre stata coerente, le province insomma sono importanti perché c'è il rapporto con il territorio, insomma lei è di questa opinione. È importante assolutamente il coordinamento del territorio, assolutamente io sono, non mi sarei candidata... Alla provincia se non credesse nella provincia. No, assolutamente. No, ma sa, c'è anche qualcuno che si candida e poi dice che le province vanno eliminate, in politica ci può essere anche di tutto. Senta, lei, oltre ad essere presidente della provincia di Cuneo, è anche la compagna di Roberto Calderoli, giusto? Che leggo sempre da questo libro di Cristina Giudici, la signora Gancia, il signor Calderoli è l'unica coppia con incarichi dirigenziali nella Lega. È vera questa cosa qua? Sì, penso di sì, no? Cioè, è l'unica coppia con incarichi dirigenziali, cioè, c'è un ministro e c'è un presidente della provincia. Questo non significa che non esistano coppie leghiste, naturalmente, ma è l'unica coppia con incarichi dirigenziali, o sbaglio? Sono passata attraverso una lezione, comunque probabilmente... No, ma per carità, ma nessuno, mica abbiamo, vogliamo dire che lei è lì perché è la compagna di Calderoli, assolutamente no. Sto dicendo semplicemente che leggo qua dal libro l'unica coppia con incarichi dirigenziali. Può essere, adesso non mi viene in mente altro. Non però... ci sono altre coppie famose leghiste, insomma, no. No, adesso non mi viene in mente in questo momento, no, non mi sembra. Non le viene in mente. Senta, le posso fare una domanda? Quando lei ha visto il ministro Calderoli, no? In quella famosa immagine recente con l'estintore, con la storia delle leggi bruciate, le 35.000 leggi bruciate con giubbotto, che impressione ha avuto? L'impressione che ho avuto è... Cioè è stato un gesto da fare, secondo lei, una cosa che si doveva fare con il ministro? Ci sono state anche diverse critiche, no? Come è normale che sia. Critiche, penso che comunque se ne è parlato, comunque adesso le leggi finalmente sono in rete, probabilmente senza la pira, così è stata definita anche dalla giornalista. La pira, sì, la pira, senza la pira non se ne sarebbe parlato, lei dice. No. Era un modo per far parlare di sé un po', o della cosa, della questione di sé, insomma, Calderoli non ha bisogno di far parlare di sé, insomma, della questione delle leggi. Poi c'è anche stata una polemica sul numero di leggi, in realtà forse non erano quelle là, ma adesso al di là di questo... Cioè, quell'immagine lì con l'estintore, lo sa perché glielo domando sempre da questo libro? Leggo che lei è considerata o si considera una leghista posata. Ecco, questi atteggiamenti, che ho preso l'esempio del suo compagno, diciamo, di Calderoli, ecco, non è il suo DNA, no? Beh, io sono piemontese e appartengo ad un movimento che rivendica l'identità di diversi popoli. Noi siamo molto diversi come piemontesi dai lombardi, siamo diversi dai veneti. Cioè i bergamaschi possono accendere le pire, invece con un piemontese non lo farebbe mai? È più difficile, effettivamente. È un temperamento diverso, sicuramente. È difficile, un salotto di Torino è diverso da un salotto di Milano. Ho capito, no, questa è un'interpretazione. Per cui diciamo che da questo punto di vista lei è una leghista posata, mentre il ministro Calderoli è un leghista un po' focoso, possiamo dire così, rispetto di lotta e di governo, si può dire, anche se poi Calderoli è anche di governo. Io sono in Lega da molto tempo, ricordo che comunque la Lega, per far parlare di sé con i media aveva necessità assolutamente di usare certi metodi, certi mezzi. Adesso forse questo bisogno è venuto a meno, però... No, appunto, dico io, magari non c'era bisogno di... L'azione è rimasta. È rimasto questo imprinting, diciamo. Direi di sì. Senta, ma lei lo critica ogni tanto per queste cose, che per queste, non dico intemperanze, perché non è che sono intemperanze, insomma, per questi atteggiamenti, lo critica un po' oppure lascia fare? Perché mi permetto questa domanda un po'... Beh, no, credo, non mi permetterei, nel senso che esprimo le mie opinioni, questo sì, come è giusto. E le sue opinioni sono di critica per queste cose qua oppure no? Adesso la prendo un po' dall'altra parte. Cioè, voglio dire... su questa storia della pira, oppure che ne so, sulla questione di Maometto, so che avete un po' su questa cosa qua, insomma, c'è stata un po' di discussione, no? La maglietta esibita sulla questione delle barzellette, lei, insomma, è rimasta un po' scossa da quello, no? Beh, effettivamente questo io non l'avrei fatto, poi penso che la strumentalizzazione sia stata non grande di più e quindi Questo indubbiamente è stata una strumentalizzazione assoluta, importante, credo che è montata assolutamente. Però lei, insomma, qualche rimprovero in quel caso gliel'ha fatto? Ma, penso di sì, insomma. Se lo ricorda o non se lo ricorda, vabbè, lasciamo perdere. No, esatto. Senta, c'è stata una questione su cui lei è intervenuta in maniera anche molto decisa, diciamo, sollevata tra l'altro dal neo presidente della sua regione, il Piemonte. C'è la questione della pillola RU486, oggi tra l'altro c'è stata la prima sperimentazione a Bari, e lei ha detto non si torni al proibizionismo, che era una critica all'atteggiamento che è stato preso, alle posizioni che sono state prese sia da Cota sia da Zaia. Dunque, secondo lei, sul modo in cui viene distribuita oggi la pillola RU 486, nulla da dire, va bene così? Beh, a tutt'oggi diciamo che le mie posizioni sono assolutamente in linea con quelle del Presidente della Regione. Il Presidente della Regione Cota ha dichiarato che quello che più sta a cuore è la salute delle donne e la tutela della vita, ed è la posizione dettata anche da Umberto Bossi. Sì, d'accordo, però ha detto anche qualcosa di diverso il Presidente della Regione Piemonte. Ha detto qui le pillole non passano, noi non le metteremo in vendita, poi è tornato indietro il giorno dopo. Insomma, la sua posizione sulla pillola mi sembra un po' diversa da quella del Presidente della Regione. Non c'è niente di male, per carità, sono questioni su cui si può anche pensare in maniera diversa. Dunque, lei la pensa in maniera diversa dal Presidente della sua regione, non la pensa nella stessa maniera. Mi sembra di aver capito, se non ho letto male le cose che sono state pubblicate o no. È stata una presa di posizione la mia, però ribadisco, ad oggi non ci sono divergenze sulla pillola. Non ci sono divergenze, va bene. La ringrazio, buona serata. Ringrazio lei, signor Cruciani. 20 e 28 800 24 00 24, Giannetto da Roma. Io dico, vabbè, lasciamo perdere. Giannetto, prego. Buonasera, io gestisco una piccola azienda e il problema è esattamente quello che dice lei. Si sente sempre parlare dei diritti di tutti, ma non si prende mai il punto di vista di coloro che cercano di fare le cose. Io cerco di affittare dei locali e giustamente i proprietari vogliono le garanzie, ma le banche, anche per importi piccolissimi, 5-6 mila euro, pretendono fideiussioni che non ti danno, provi ad assumere un dipendente che poi non riuscirai mai a licenziare. Si parla tanto di ragazzi che non vogliono precariato, se provi a fare un contratto a progetto non ti viene a lavorare nessuno, però se provi a mandare via uno immediatamente ti denuncia perché non potevi mandarlo via. Dunque? È difficilissimo lavorare e il punto di vista di chi cerca di creare il lavoro, di chi cerca di fare le cose, non viene mai visto da nessuno. Io rido con i miei colleghi, con i miei amici, qualche volta vorrei che Santoro fosse me, così provo a incazzarmi io con Santoro per provare a fargli vedere cosa significa provare ad andare in banca e farsi dare 5.000 euro di fideiussione per affittare un locale dove metterci dentro due persone a fare telemarketing. D'accordo, Giannetto, lei ci sta descrivendo le difficoltà di un imprenditore nel fare cosa? Nel trovare finanziamenti, lo sappiamo, poi? No, nel far lavorare la gente, nel creare, anche semplicemente nel creare lavoro per quelle persone che si lamentano di non avere lavoro. D'accordo, grazie. Eccoci qui, 20 e 33, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Avete sentito la voce un po' flebile, un po' bassa, un po' timorosa. Non capisco perché. del presidente della provincia di Cuneo, che è la compagna del ministro Calderoli, che negava anche l'evidenza in alcuni momenti, cioè dire le sue prese di posizione contro il presidente Cota sulla questione della pillola RU486. Ma la politica è fatta così. Enrico da Padova, buonasera. Enrico, dica. Sì, io chiamo da Padova, sono un giovane avvocato, sì. Lavoro da circa 3 anni. Da quando ho iniziato ho visto che c'erano i minimi tariffari, sono stati aboliti e adesso si parla di reintrodurli. Ho sentito prima che lei era favorevole all'abolizione, se non ho capito male. Ma sì, sono favorevole perché penso che sia una cosa contro ogni tipo di logica storica in generale, il minimo tariffario. Ma che vuol dire? Non significa niente. Vuol dire. Che vuol dire? Mi spieghi? Lei fa l'avvocato? Sì. Sì. Da 3 anni, quindi da non molto, ma qualcosa. No, vabbè, 3 anni, vabbè, insomma, voglio dire, qualcosa sa, certo. Certo, per quanto mi riguarda si tende a fare un po' di confusione in questa materia, nel senso che si equipara un po' la professione avvocato, ma qualunque professione intellettuale, a un bene o un servizio di tipo materiale qualunque. Questo secondo me è profondamente sbagliato. Io lavoro in uno studio in conduzione familiare. Lei parte da lontano però, Enrico, con la concezione lontano. Dello studio di del ministero di avvocato. Certo, i clienti guardano anche quello sicuramente, però la cosa principale è la qualità della prestazione professionale. No, ma certo, quello però chi lo giudica? Chi lo giudica quello? Ora, quando si parla di minimi tariffari in Italia non si tiene conto che di avvocati, non lo saprà benissimo anche lei, ce ne sono in quantità spropositata, sì. Quindi da quel punto di vista la concorrenza non manca. Abolirli cosa ha comportato? Ha comportato che per esempio colleghi che lavorano con grossi enti dove il potere contrattuale è chiaramente a sfavore, si sono visti che già lavoravano con i minimi, si sono visti tolti anche questi minimi e lavorano a cifre assolutamente più basse, ridicole. E questo è uno degli effetti. L'altro effetto, per esempio, è che grossi studi che hanno a loro volta un certo potere contrattuale, cosa fanno? Assumono giovani avvocati, tra virgolette, assumono perché non sarebbe poi un lavoro dipendente, come sappiamo. Ma questo non c'entra niente con i minimi? Come no? C'entra perché... Per garantire costi inferiori ai minimi tariffari poi devono sfruttare. Cioè lei dice l'abolizione dei minimi tariffari comportando meno guadagni, questo è tutto da dimostrare naturalmente, secondo me nel complesso è tutto da dimostrare, può succedere naturalmente per qualche studio, comporta necessariamente anche lo sfruttamento, un maggiore sfruttamento da parte, diciamo, è una diminuzione della qualità generale, media della non lo so, secondo me queste cose vanno valutate nel lungo periodo, non siamo ancora in grado di valutare il funzionamento di una riforma del genere, bisognerebbe aspettare ancora qualche anno e poi ripeto, non so nemmeno se sia stato fatto poi uno studio approfondito sulla incidenza sulle tariffe dell'abolizione dei minimi. Comunque, Enrico, per carità, noi registriamo la sua opinione e siamo qui. Daniela da Bari. Pronto? Sì, dica. Salve, buonasera. Buonasera. Senta, io ho chiamato perché volevo rispondere in merito al discorso sulle mense scolastiche, no? Sui bambini, come ha detto l'altro ascoltatore prima, affamati, tenuti così a digiuno. Allora, io premetto che ho 3 figli che ormai non sono più in diritto di mensa scolastica perché sono al superiore, però tutti e 3 hanno usufruito del servizio. Allora? Praticamente volevo spiegare un po' come vanno le cose, nel senso che la mensa viene erogata in base al reddito e il costo più alto di un pasto giornaliero è 1,90 €. Quindi praticamente non penso che per 1,90 € ci sono famiglie che non riescano a soddisfare questo tipo di necessità, anche perché per esperienza personale è capitato più di una volta di vedere persone che dichiaravano 0 reddito. Io che sono un insegnante, quindi comunque ho un reddito prestabilito e fisso, ho sempre pagato il massimo di tutti gli asili, le mense, le cose. e poi vedevo no, tantissima però, gente. Però Daniela, mi scusi un attimo, sì, lei dove vuole arrivare con questo ragionamento? Cioè, no, ci volevo dire che quando ci sono questi discorsi contro i sindaci che prendono provvedimenti perché le famiglie non arrivano, sì, poverini, sì, cioè bisogna andare comunque a vedere le situazioni, perché il costo della mensa scolastica è 1,90 euro. Cioè non stiamo parlando di sì, poi magari no, certo, poi magari sono le stesse persone che si lamentano perché i comuni non hanno i soldi, certo, se poi ecco, non si pagano le rette. Ecco, cioè a quel punto è un servizio minimo che la scuola comunque offre, perché una parte di contributo, certo, delle mense, certo, comunque sono pagate dal comune, cioè certo, un piccolo contributo che si chiede alle famiglie. In non c'è dubbio, Daniela, tra l'altro voglio aggiungere che c'è una grande disinformazione su queste vicende. Non c'è nessun sindaco che lascia pane e acqua ai bambini, non succede. Non ci sono i bambini che muoiono di fame, non ci sono i cinici e i crudeli, come diceva la Bindi in una puntata di Porta a Porta. Non esiste una cosa del genere, ci sono strumentalizzazioni su queste vicende. Magari c'è qualche sindaco che se ne esce in maniera un po' rozza, quello sì. Non è che i bambini vengono lasciati a pane e acqua. Daniela, io non credo che i figli di persone che non pagano non mangiano in mensa, no. Insomma, sarebbe no, una follia. No, ma poi, poi non penso che praticamente la mensa sia così un servizio costoso da essere discriminatorio, perché questo poi è il discorso che si è voluto far passare, no? Per cui i ricchi possono mangiare, i poveretti no. Non è una questione, anche perché, le ripeto per esperienza, gente che dichiarava reddito zero veniva in Mercedes a prendere i figli a scuola, perché ce ne sono di queste situazioni. Sì, poi, io ripeto, io sono una semplice docente di scuola superiore, quindi il mio stipendio è quello e io ho pagato sempre tutto. Ho capito, grazie, grazie Daniela, grazie. Okay, buona serata. Diego da Udine, Diego da Udine, buonasera. Buonasera Crociano. Io volevo tornare sul legittimo impedimento. Lei si ricorda che ci fu detto per mesi che una delle riforme più importanti era il processo breve. Sì. Cioè che tutti i cittadini avessero dei tempi certi per il primo, secondo e terzo grado di giudizio. E adesso la cosa, insomma, è nel dimenticatoio. Ecco, io guardi, sono assolutamente d'accordo sul legittimo impedimento e assolutamente d'accordo che un governo, un ministro, un presidente del Consiglio possa governare e poi regolare i conti con la giustizia per fatti precedenti al suo mandato. Però contemporaneamente mi sarebbe piaciuto vedere Napolitano che firmava anche il processo breve, perché non si capisce per quale motivo quello che era urgentissimo 4 mesi fa adesso è completamente dimenticato. Quella però è una questione politica, non c'entra niente il Presidente della Repubblica. No, no, io sono d'accordo, il Presidente della Repubblica doveva firmarlo, ci ha messo 20 giorni, ha aspettato, ha ponderato, secondo me chi lo critica sbaglia clamorosamente. Poi abbiamo la Corte Costituzionale, è un paese in cui la democrazia funziona, magari male, ecco, magari no, benissimo, però ancora abbiamo contrappesi. Però io mi ricordo benissimo Gasparri che si arrampicava sugli specchi in una trasmissione televisiva importantissima dicendo che era una riforma non per risolvere le questioni di Berlusconi, ripeto, io sono d'accordo. Sì, ma per i cittadini, risolte, per i cittadini che devono avere una giustizia certa in tempi brevi, ma certo, per tutti i cittadini. Adesso ci troviamo con giustamente il legittimo impedimento e tutti i cittadini che sono sottoposti alla lungaggine di un sistema giudiziario che non solo per colpa dei magistrati, alcuni magari sì, ma altri sono fantastici, ma per il sistema perverso che li tiene sotto scacco per 10-15 anni. Allora, io da elettore di una parte politica rimango perplesso e dico, ma scusate, ma allora ci avete convinto, ci avete preso in giro? Sì, no, ma Diego, le prese in giro sono continue da questo punto di vista, no? Ogni tanto, ogni tanto bisogna sempre saper ponderare le dichiarazioni dei politici, noi cerchiamo di farlo ogni giorno, quando qualcuno ci dice questa è la riforma principale perché i cittadini eccetera, la prima cosa è non credere a quello che i politici dicono. Ma adesso quando un esponente di un altro partito, noi insomma essendo normali, donne normali, parliamo di politica tutti i giorni, sì, e difendiamo le nostre idee, e qualcuno ci diceva no guarda che questa è una legge per Berlusconi e noi no, a dirgli no guarda che serve per questo, questo e questo, sono 3 milioni di processi penali, adesso che cosa diciamo? Che avevano ragione? No, no, non è questione di dire che avevano ragione, era per Berlusconi, è che spesso nella politica italiana le riforme si propongono non perché servano per davvero, ma per convenienze politiche momentanee, e dunque spesso poi queste riforme, quando non si riesce a portarle in addirittura d'arrivo, non si riesce a concluderle, vengono lasciate lì e quello che era essenziale prima diventa diventa poi assolutamente marginale. Grazie, la questione del fatto. C'è la questione del finanziamento pubblico diretto e del finanziamento pubblico indiretto. Ricapitoliamo un po' le cose, perché ieri sera sono stati i nostri ospiti Filippo Facci e poi a un certo punto, a sorpresa, anche alla fine Belpietro, perché Facci gli ha passato il telefono. Erano più o meno le 20:44 anche ieri sera. Risentiamo Facci. Non ci sarebbe nessun problema se non avesse il fatto sempre tuonato contro le stesse agevolazioni che ora riceve. Non ci sarebbe problema se non avesse deciso di riportare appunto sotto la testata che non riceve alcun finanziamento pubblico, perché è una balla ed è ipocrita particolarmente. Belpietro. Non è obbligatorio utilizzare questo gravio, in sostanza, questi soldi. Si può anche spedire mettendoci francobollo. Se si utilizza questo sistema, lo Stato ripiana i costi dando dei soldi alle poste. Eccoci e concludiamo questa vicenda che ha coinvolto diversi ascoltatori, molti lettori anche del Fatto, abbonati del Fatto che sono intervenuti. Dunque abbiamo sicuramente avuto anche la voce delle persone contrarie alle opinioni di Facci e di Belpietro, ma concludiamo con un giornalista del Fatto che si chiama Marco Lillo. Ciao Marco, buonasera. Buonasera a voi. Allora, traffico, ti chiediamo un altro minutino di attesa, poi torniamo con te. Siamo qui alle 20:47 con Marco Lillo del Fatto. Allora, i fatti quali sono? Li vogliamo ricapitolare? I fatti sono in due numeri e due parole. Io direi il Fatto è sconfitto da Libero per 300.000 a 7.800.000. Questi sono i dati semplici. Il secondo dato, cioè, sconfitto in che senso, scusa? Nel senso che Libero riceve dallo Stato un finanziamento vero di 7.800.000 euro all'anno, mentre il Fatto riceve un'agevolazione postale, che non è un finanziamento, come è chiaro, ma è una tariffa agevolata che riguarda tutti, indistintamente, diciamo, gli operatori della comunicazione, pari complessivamente a fine anno a una cifra che Facci stesso stima in 300.000 euro. Ora, anche i termini sono importanti. Chiaro che quando Facci dice il Fatto dice di non ricevere nessun finanziamento, è esattamente quello che accade, perché noi non riceviamo nessun finanziamento dalla Presidenza del Consiglio, che invece viene riservato a società come quella di Libero, che si è messa sotto il cappello di una fondazione, che è la Fondazione San Raffaele, per ricevere, ripeto, 7.800.000 euro. No, ma le due cose però, Facci ha ben chiara la distinzione, credo. Non è che voglia confondere il finanziamento pubblico diretto, che è quello che oggi lo ha anche ripetuto in una trasmissione su Canale 5, che è quello che interessa Libero, con questo tipo di finanziamento. Quello che viene messo in rilievo da Facci è che Libero, diciamo, non nasconde questo finanziamento. Al contrario, il Fatto ha messo sotto la sua testata, e non dall'inizio, dice sempre Facci, questa cosa che in piccola parte, aggiungo io, viene contraddetta da questo rimborso postale. Non c'è contraddizione? Tu non trovi che ci sia contraddizione? No, provo a spiegarlo in due parole. Innanzitutto è falso che il Fatto abbia nascosto di ricevere questa agevolazione postale. Chi ha detto che ha nascosto? No, appunto, non è falso, nel senso che l'abbiamo addirittura comunicato. Assolutamente. Abbiamo fatto ascoltare la voce di Poidomani. Giorgio Poidomani l'ha detto, ma è molto semplice il discorso. Insomma, per dire in due parole, qui c'è un quotidiano che non potrebbe vivere, cioè dovrebbe mandare a casa tutti i suoi giornalisti se non ricevesse i soldi dallo Stato, quindi i soldi che... Questo è Libero. Contribuenti, esatto. Libero in assoluto è il quotidiano che prende più finanziamento pubblico, nonostante sia quello che tutti i giorni riempie le sue pagine di articoli editoriali, da Belpietro a Facci, appunto, contro lo Stato spregone, lo Stato che prende soldi immediate le tasse. Ora, è chiaro, è evidente a tutti che stanno in difficoltà questi signori, che da un lato si professano... Però scusami Marco, scusami se ti interrompo, su questo. La polemica non deve essere fatta... È un problema di terminologia. Allora, ecco. Noi abbiamo detto nella conferenza stampa di presentazione che non abbiamo problemi a dire che riceviamo questa agevolazione postale, che posso spiegare molto, molto recisamente di che si tratta. Allora, ciascun operatore della comunicazione si iscrive in un registro che si chiama ROC e automaticamente ha diritto a questa tariffa. Faccio presente che... Cioè è automatica, non bisogna chiederla questa agevolazione postale? Il registro, non si chiede un'agevolazione, si iscrive al registro degli operatori della comunicazione e automaticamente si accede a questa tariffa agevolata, circa del 50%. Ci si può rinunciare? Può darsi di sì, ma posso dire una cosa? Sarebbe una cosa ingiusta rinunciarci, per il semplice motivo che, per capirci, si pagherebbe lo stesso che si paga per spedire un pacchetto, per spedire una cosa come 12.000 quotidiani. Sì. Cioè, il problema è che siamo in un regime di monopolio obbligato, per cui dall'anno prossimo questo monopolio cadrà. È evidente che se il fatto si presenterà agli operatori privati, che saranno DHL, piuttosto che, per non far nome, insomma, tutti i corrieri espressi, che ovviamente potranno entrare in questo mercato che attualmente è riservato alle Poste, io sono sicuro, certo, che se uno si presenta e dice spedisco un pacchetto, paga la tariffa piena, ma se dice spedisco 12.000 quotidiani in tutta Italia, ritengo che la tariffa piena non venga però fatta. La domanda, scusami, la domanda è questa. Allora, il senso è che è evidente che quindi quello che noi paghiamo, cioè 0,28 mi pare centesimi, o meglio 28 centesimi a copia, è molto, è uno sproposito per il servizio che abbiamo, e quindi non mi sento assolutamente di paragonare questo a un finanziamento che viene dato sulla base dei costi sostenuti da un giornale, è molto diverso, lo capisce chiunque, no? No, ma certo, ma questo qua la differenza mi pare la differenza è chiara, però non viene negata anche neppure da Libero. Il fatto di esporre sotto la testata una scritta che la maggior parte delle persone interpreta: noi non prendiamo una lira dallo Stato. Questa è la traduzione. La traduzione che fanno tutti di una scritta di questo tipo messa sotto la testata. Non riceve alcun finanziamento pubblico. Al di là delle distinzioni, finanziamento pubblico diretto, allora, indiretto. In realtà, scusami, completo, poi ti lascio parlare. Sì. Attraverso un rimborso, le Poste, eccetera, ci sono una piccola parte di soldi dello Stato che vanno a finanziare, ripeto, indirettamente il Fatto Quotidiano, il Fatto Quotidiano come tutte le altre testate. No, non è così, per spiegarlo ripeto ai lettori. Allora, il lettore che va a comprare la copia in edicola, allora se vogliamo proprio distinguere i due lettori, il lettore che compra la copia in edicola paga 1,20 euro il Fatto Quotidiano, e non, su quella copia, diciamo, il Fatto non riceve nessuna agevolazione, nemmeno di tipo postale, nemmeno una tariffa agevolata, diciamo, perché è evidente che si tratta di una copia comprata in edicola, quindi pagata integralmente dal Fatto e acquistata integralmente dal suo lettore. I 12.000 circa lettori, un po' di meno, quanti sono adesso, quelli che ricevono un abbonamento postale, noi dovremmo mettere quindi un post-it su ciascuna di quelle copie e dire: signori, sulla tariffa del francobollo abbiamo un'agevolazione che hanno tutti, chiunque stampa qualcosa e lo spedisce, si iscrive a questo registro che si chiama ROC, porta la tariffa a 0,50. Cioè, questo è quello che accade, lo capisce chiunque, che è una cosa completamente diversa rispetto a un contributo pubblico che è costato, no, ma certo che è diverso, 5 milioni di certo euro. Soltanto ma... per finanziare Libero. No, come ma ho dire, capito benissimo la differenza. Le nostre gambe. No, cioè, ma certo. Ma se lo Stato non esistesse, potremmo tranquillamente vivere, e quello che accadrebbe sarebbe semplicemente che chi riceve la copia a casa del Fatto Quotidiano pagherebbe 0,28 euro in più, punto. Ma noi stiamo in piedi. Libero, se gli tolgono i soldi, muore, perde 8 milioni di euro e manda a casa 90 giornalisti. Vabbè, adesso sulla morte magari non bisogna... Non glielo auguro assolutamente. No, ma nel senso che... Leggo per primo tutte le mattine, però voglio dire, i dati sono questi, cioè i giornalisti Libero tutti costano meno all'editore dei soldi che ricevono ogni anno, Loro sono pagati dallo Stato. Va bene, grazie Marco Lillo del Fatto. Riccardo da Pavia, buonasera. Buonasera, io volevo soltanto, se ci fosse ancora un giornalista Lillo sarebbe meglio, ma abbiamo perso Amen. Marco, ci sei? No, non c'è più, Riccardo. Peccato, niente, sarò rapidissimo, solo per dire che l'informazione che ha dato Lillo è sbagliata riguardo al fatto che quando un operatore della comunicazione si iscrive al registro ROC, non accede automaticamente alle agevolazioni postali, ma va fatta una richiesta di omologazione. Quindi, senza entrare nel merito, lei dice che non è obbligatorio prendere queste agevolazioni. Non è automatico, va fatta una richiesta. Uno può essere iscritto al registro di operatori della comunicazione, ma non accedere alle agevolazioni postali per scelta che il Fatto può decidere di fare oppure no, quello è a far loro. Non è però automatico ottenerle. Ho capito. Va fatta un'omologazione. Grazie. Elena da Lodi, buonasera. Sì, buonasera. Dica, abbassi la radio. Mi chiedevo dove sta la responsabilità A livello più basso di un italiano. La sentiamo malissimo, Gino da Napoli. Pronto? Dica. Buonasera, senta. Io buonasera Cruciani. Volevo buonasera. Commentare quella che è la conversazione che ho ascoltato lì con l'onorevole Mussolini a proposito della provocazione della Lega del candidato leghista qui a Napoli. Sarebbe bello perché appunto noi siamo desiderosi di ordine, di vedere, ecco. Però io immagino che possa essere anche difficile questa figura, perché mi immagino un po' una figura mitologica, metà leghista, metà napoletana, perché per mettere insieme le realtà napoletane che sono sempre effervescenti, spumeggianti, è un bel da fare, anche se devo dire che mi piacerebbe pure l'ipotesi. Ma insomma, a lei piacerebbe l'ipotesi o no? Non ho capito bene. Sì, piacerebbe l'ipotesi, però questa ipotesi irrealizzabile, diciamo la verità. Sì, la vedo dura, perché insomma è una figura abbastanza complessa, che dovrebbe avere delle doti appunto di ordine, rigore, di un leghista, però avere anche quella capacità non indubbia dei napoletani di mettere insieme delle realtà abbastanza scomode. Basterebbero le prime di doti. Grazie Gino, abbiamo concluso, ci sentiamo domani 18:30, ciao. La Zanzara.